vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 13 settembre, il sole in regione sorto alle 6.43, tramonterà alle 19.22. Giovedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Per difendere e valorizzare uno dei prodotti portabandiera della tradizione agroalimentare friulana, ovvero la brovada, si è costituito un consorzio ad hoc. Nel servizio di apertura analizzeremo caratteristiche e finalità della sua mission. A seguire il corsivo di Enos Costantini con le alterne fortune avute dalla patata nella storia, da cibo salvapopoli a controverso snack moderno. Nella rubrica delle normative oggi si parla delle nuove provvidenze economiche in favore degli agriturismi coinvolti nella crisi dovuta alla pandemia Covid, mentre proseguono le analisi su pregi e difetti dell'olio di oliva. Inizia poi oggi una nuova rubrica dedicata alla frutticoltura in regione, che parte da un'analisi delle potenzialità di un settore che non riesce a far fronte alla domanda interna. Per lo spazio che dedichiamo a parchi e giardini siamo andati nel vivaio forestale di Tarcento, dove si allevano le specie autoctone che forniscono il verde pubblico e privato. L'andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante, il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. La brovada è sicuramente uno dei prodotti tipicissimi della gastronomia e dell'agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Già dagli anni 2000 ha una sua DOP, una denominazione di origine protetta. Questa DOP ora si è trasformata, o meglio, fa da spina dorsale a un consorzio di tutela che è stato costituito proprio pochi giorni fa. Il suo presidente è Fulvio Mansutti, operatore del settore ortofrutticolo. Perché questo consorzio? Il consorzio nasce per proteggere la DOP, per tutelarla e per promuoverla anche fuori regione. Chi ne può far parte? Ne possono far parte sia i produttori di brovada, sia i produttori di rape da brovada. Quali caratteristiche deve avere una brovada per poter essere nel range del vostro consorzio? Deve rispettare il disciplinare di produzione, che prevede dei minimi e dei massimi degli ingredienti. Ovvero? Ovvero un minimo di 25% di vinaccia, un poco di vino, pochissimo aceto e pochissimo sale, e più un tempo di maturazione non inferiore ai 30 giorni. Chi non avrà queste caratteristiche non potrà far parte del consorzio e non potrà marchiare la sua brovada. Non potrà usare il nome brovada. C'è da difendere anche questo prodotto, perché ultimamente quella che qualcuno chiama la brovada forzata o la brovada furba, che vedeva l'utilizzo preponderante dell'aceto, si è fatto un pochettino troppo largo. Voi vigilerete. Noi abbiamo fatto la DOP della brovada per tutelare la ricetta originale, dove non è previsto un uso esagerato di aceto o di vino. Infatti il nostro disciplinare prevede, prima di mettere in commercio la brovada DOP, un'analisi per misurare il pH, che deve essere inferiore al 3,8, che garantisce la sicurezza alimentare, e non deve avere un'acidità superiore ai 5,5, per dimostrare che la brovada è stata fatta prevalentemente con la vinaccia. Ecco, siamo arrivati alla vinaccia, l'ingrediente principale in tutto questo processo. Che caratteristiche deve avere? Deve essere prodotta in Friuli Venezia Giulia, nella zona delimitata dalla DOP, deve essere a bacca rossa e deve essere fresca, non deve avere sentori di muffa. Per quanto riguarda invece le rape, altro prodotto strategico, quali le caratteristiche? Il seme deve essere autoctono, quindi deve essere prodotto in Friuli Venezia Giulia. Le rape hanno la caratteristica di avere una forma rotonda allungata, bianche dal colletto viola. C'è già un seme per questo? Sì, ogni produttore ha il suo seme autoctono, che lo conserva negli anni e lo porta avanti. Un seme che deve essere certificato anche questo? Esattamente, sì, deve essere certificato. Quali i numeri della brovada friulana per quanto riguarda la produzione e le proiezioni possibili di ampliamento? Attualmente la produzione viene stimata in circa 5.000 quintali, però visto la produzione delle rape che ultimamente è andata aumentando in Friuli, possiamo valutare che può essere anche raddoppiata. Dove avete la sede? La sede l'abbiamo presso il comune di Corno di Rosazzo, presso il consorzio di tutela dei vini dei Colli Orientali, e abbiamo costituito il consorzio in 3 produttori. Enos Costantini nel suo corsivo odierno analizza le miste fortune della patata nella nostra società, passata da cibo salvapopoli a controverso snack moderno. Milan, Inter e Juve sono nomi ricorrenti di 3 industrie. Io sono legato all'agricoltura e faccio i nomi di Ovoledo, Godia e Ribis, dove, facendo astrazione dalla congiuntura virale, si tengono le sagre dedicate alle patate. Qui gli gnocchi, friulanamente detti macarons, sono sempre ottimi e il merito è tutto delle donne. Le patate sono state un utile supporto della dieta contadina e montanara in tempi magri e molte famiglie riuscivano a passare l'inverno soltanto grazie ad esse. Ora quei tempi sono per fortuna finiti, ma i tuberi, oggi coltivati su estese superfici di pianura, subiscono trasformazioni industriali non migliorative. Li trovate sotto mentite spoglie nei supermarket, nascosti in molteplici preparazioni o proposti in confezioni variamente colorate. E a proposito di colori, le patate originarie, quelle delle Ande, hanno tutta la policromia dell'arcobaleno. Sono cioè cariche di sostanze che ci proteggono, mentre le nostre sono bianche, tutt'al più gialline o rossicce. I popoli delle Ande hanno messo a punto millenni addietro un sistema di liofilizzazione delle patate, al quale ci siamo ispirati per produrre il purè istantaneo. Ma non mi pare un grande progresso. Le patate fritte sono nate nelle città europee a metà 800 grazie a venditori ambulanti che dapprima usavano il grasso di cavallo, poi gli oli di provenienza coloniale a basso prezzo, e ciò ne ha ampliato la diffusione. Ora non ci sono più le colonie, ma oli a basso costo, dalle controverse qualità e dal perverso impatto ambientale, sono più che mai in auge. E l'offerta delle indecorose patatine che, non richiesta, accompagna il tocai, ha la proprietà di trasformare il soave retrogusto di mandorla amara in un calice amaro, non di Udine, privo di virtù digestive e foriero di sconvolgenti tempeste gastriche. L'agriturismo è uno dei settori più colpiti dal lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19. Viene in soccorso degli operatori un nuovo intervento del piano di sviluppo rurale. Ce ne parla Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Sì, sono oltre 650 le strutture agrituristiche in Friuli Venezia Giulia, di queste circa 160 hanno solo alloggio, 320 solo somministrazione e mescita. Altre 190 fanno entrambe le cose, 120 sono anche fattorie didattiche e una quarantina operano come fattorie sociali. Dal mese di maggio le attività sono prudentemente ripartite, ma con numeri molto ridotti e in ogni caso senza speranza di poter recuperare i ricavi persi nel periodo primaverile. Considerato che a livello nazionale non sono state istituite misure economiche straordinarie a sostegno specifico di questo comparto, ecco che nell'ambito del PSR 2014-2020 la Regione ha attivato la misura 21.1. Qual è l'obiettivo dell'intervento? L'obiettivo è quello di fornire liquidità alle aziende agricole che hanno investito nella diversificazione. Indirettamente si vuole anche mantenere attiva l'offerta di servizi turistici nelle aree rurali. Il bando è stato approvato il 28 agosto 2020 ed è formalmente aperto da giovedì 10. Le domande devono essere presentate in modalità telematica tramite CA entro il termine improrogabile del 12 ottobre 2020. Una sorta di risarcimento per mancato reddito? Di fatto è così. L'intervento prevede la concessione di un contributo in conto capitale pari a 7.000 euro per gli agriturismi con alloggio e ristorazione, 5.000 euro per gli agriturismi solo con alloggio o sola ristorazione, 3.000 euro per le fattorie didattiche e le fattorie sociali. Tali importi saranno decurtati delle cifre eventualmente già percepite per le medesime finalità in base ad altre misure di aiuto regionali. chi può beneficiare degli aiuti? Ecco, almeno questa volta le cose sono molto semplici. Gli unici requisiti per partecipare al bando sono essere iscritti al registro imprese, essere iscritti nell'albo regionale degli agriturismi o delle fattorie didattiche sociali, aver attivato l'attività agrituristica prima del 31 gennaio 2020 e non essere classificati come imprese in difficoltà. Oltretutto, non ci sono nemmeno criteri di priorità, la dotazione di 3.300.000 euro, dei quali 2.900.000 di risorse PSR, e la restante parte di risorse integrative regionali. A conti fatti dovrebbero essere sufficienti per tutti, ma se mai dovessero bastare sarà operato un taglio proporzionale senza lasciare fuori nessuno. Con Ennio Scarbolo che ci cura questa rubrica, oggi vediamo quali siano i pregi e i difetti che si possono riscontrare nell'olio di oliva. Abbiamo portato le olive frantoio e ritirato l'olio. Che olio è? Si chiamano oli vergini di oliva. Secondo la definizione di legge sono gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo solo mediante processi meccanici o altri processi fisici in condizioni segnatamente termiche che non causino alterazioni all'olio e che non abbiano subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Pregi e difetti dell'olio extravergine di oliva. Iniziamo con i pregi. Il fruttato, insieme delle sensazioni olfattive caratteristiche dell'olio, che dipendono dalla varietà delle olive, proveniente da frutti sani e freschi, verdi o mature, percepite per via diretta. Può essere fruttato fresco, profumo di erba appena tagliata, di foglia di olivo, frutta fresca, oppure fruttato maturo, profumo di frutta secca. Queste sensazioni si sentono solo negli oli di oliva. L'amaro, sapore caratteristico dell'olio ottenuto da olive verdi e invaiate. Alcune cultivar di olivo come la bianchera, la coratina e la bosana producono un olio estremamente amaro e piccante, ricco di polifenoli. Il piccante è una sensazione tattile, pungente, caratteristica di oli prodotti all'inizio della campagna olearia, principalmente da olive ancora verdi. E passiamo ai difetti. Il riscaldo è il flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive ammassate che hanno sofferto un avanzato grado di fermentazione anaerobico. Muffa e umidità è il flavor caratteristico dell'olio ottenuto da olive nelle quali si sono sviluppati abbondanti funghi e lieviti per essere rimaste stoccate molti giorni in ambienti umidi. La morchia è il flavor caratteristico dell'olio rimasto in contatto con i fanghi di decantazione. L'avvinato e l'inacetito è il flavor caratteristico di alcuni oli che ricorda quello del vino e dell'aceto. E per ultimo abbiamo il rancido, che è il flavor degli oli che hanno subito un processo ossidativo. Quando negli oli percepiamo questo odore e sapore, che è tipico dei grassi di origine animale mal conservati, lardo di colore giallo, siamo a capolinea. Attenzione, i grassi rancidi sono tossici. Inizia oggi una nuova rubrica per Vita nei Campi, dedicata alla frutticoltura, una pratica che anche a livello amatoriale è sempre stata diffusa nella nostra regione. A curarcela il professor Raffaele Testolin, vecchia conoscenza di Vita nei Campi, se non peraltro per averci accompagnato in tutta l'avventura della creazione delle viti resistenti. Il professor Testolin all'Università di Udine insegna appunto frutticoltura e parte con una visione d'insieme di questa pratica in Friuli Venezia Giulia che, detta subito, non è poi così tanto rosea. Sì, diciamo che se il Padre Eterno voleva castigarci, non ci poteva trattare peggio. Di tutta la frutta che consumiamo, ne possiamo produrre proprio poca. Perché? Perché il Friuli è collocato geograficamente in una fascia climatica temperato fredda dove poche specie da frutto possono sopravvivere e produrre. Conseguenza di tutto questo è che importiamo oltre il 90% della frutta che consumiamo. Importiamo ovviamente gli agrumi da zone più calde, ma molta altra frutta la importiamo dalle zone tropicali o in controstagione dall'altro emisfero, perché da consumatori sofisticati vogliamo tutti i tipi di frutta per tutto il periodo dell'anno. Vai a spiegare tu che a gennaio non è il caso di cercare ciliegie in negozio, niente da fare. A gennaio vogliamo le ciliegie e il mercato è pronto a fornircele facendole arrivare dal Cile in aereo a prezzi da capogiro. Per la poca frutta che riusciamo a produrre nei nostri ambienti, mele, pere, pesche, kiwi, siamo in competizione con molti produttori italiani e di altri paesi dell'Unione che vengono a venderci mele e pesche sull'uscio di casa. Una situazione non facile, ma non senza una via d'uscita. Possiamo scegliere di coltivare, per esempio, specie dove la competizione è meno forte e quanto stanno facendo in regione i produttori che hanno avviato colture come il ciliegio, il nocciolo, il noce, il cachi, il kiwi, alcuni frutti minori dove gli spazi commerciali esistono. Un'altra scelta interessante fatta da alcuni frutticoltori è quella di portare in azienda la trasformazione del prodotto. Se la mela viene pagata poco, il succo di mela, il sidro o le puree di mela vengono pagati molto di più. Se i produttori friulani di nocciole si organizzano, come del resto stanno facendo, e anziché cedere le nocciole al primo commerciante che passa, vendono all'industria il prodotto sgusciato, ecco che ancora una volta una fetta importante del valore della filiera resta in regione. In conclusione, c'è spazio per la frutticoltura professionale. Bisogna scegliere bene le specie, studiando il mercato, ma soprattutto, se un giorno mi capitasse di dover dare un consiglio all'assessore alla politica agricola regionale, direi Vonde Blave. Sviluppiamo la frutticoltura, ma soprattutto sviluppiamo la filiera dei prodotti trasformati per non essere alla mercé del primo mediatore dalla pancia gonfia e le mani sudate. Oggi per la rubrica dei parchi e giardini che ci cura Franca Merluzzi andiamo in visita al vivaio forestale regionale Pascul di Tarcento, in località Pradandons e al suo arboreto creato nel 1953. Le visite per le scuole iniziano con una passeggiata nell'arboreto di conifere e latifoglie per far conoscere dal vero le diverse specie arboree e apprendere elementi di botanica. I ragazzi entrano poi nelle serre e vengono coinvolti in attività manuali. Alla fine, soddisfatti, portano a casa la loro piantina. La visita al vivaio forestale regionale di Tarcento è tuttavia interessante per tutti. Come spiega Michele Alessio, vivaista specializzato, ogni anno qui si producono migliaia di piante, in vaso e a radice nuda, di specie autoctone, presenti cioè nel territorio regionale. Gelsi, noci, noccioli, carpini, faggi, pioppi, salici, abeti e altri alberi e arbusti che appartengono al patrimonio botanico dei nostri paesaggi. Le 70 specie prodotte, per seme o per talea, sono certificate e ogni fase del ciclo vitale è tracciabile. Distribuite a enti pubblici, vengono utilizzate per vari scopi: rimboschimenti, rinaturalizzazione di aree colpite da calamità, miglioramento del verde. Anche i privati possono farne richiesta e sono in aumento coloro che le apprezzano, preferendole a specie esotiche presenti sul mercato. Il vivaio collabora con gli Atenei della Regione e con l'ERSA per progetti speciali, frutto di ricerche e sperimentazioni. Qui si segue la crescita di alcune piante del futuro, in grado di resistere alle malattie. Si prevede l'incremento delle piante mellifere per gli insetti impollinatori, ma anche delle piante autoctone che contrastano le infestanti a copertura di terreni danneggiati. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento poco attivo e prezzi in diminuzione venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con un 14% è stato quotato tra 16,20 e 16,40 euro al quintale IVA esclusa, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 14,50 e 15 euro e il frumento tra 17,50 e 17,80. Scambi attivi invece all'altro fotticolo di Udine, con prezzi in buona evidenza. L'insalata gentile viene quotata da 1,90 a 2 euro il chilo IVA esclusa, la lattuga trocadero tra 1,50 e 1,60, le zucchine tra 2,30 e 3 euro, i pomodori in grappolo tra 1,20 e 1,40, i cavoli tra 2,10 e 2,30, il radicchio rosso tondo tra 1,70 e 1,80, quello di Treviso precoce tra 2,40 e 2,50, le patate fra 0,55 e 0,65, le mele golden tra 0,80 e 1,50, le pere Williams tra 1,80 e 2 euro, le pesche da 2,60, le pesche noci tra 2,50 e 3 euro, l'uva tra 1,40 e 2,50 e l'anguria tra 0,70 e 0,80. Nel settore della pesca si è ripresa l'attività ittica sia in laguna che in mare e la settimana è stata discreta con un pescato proficuo. Alla cooperativa Pescatori San Vito di Milano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi vengono quotati da 20 a 30 euro al chilo IVA esclusa, le umbrine tra 15 e 25, i laterini tra 9 e 13, mazzancolle da 15 a 22, le seppie da 13 a 18, i calamari e calamaretti da 14 a 19, le orate da 7 a 20, le passere da 14 a 17, le capesante da 12 a 15. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano prezzi in ripresa rilevati dalle quotazioni dell'Alta Italia, dove i polli a terra vengono pagati tra 1,04 e 1,06 euro al chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,25 e 1,27, le anatre tra 2,25 e 2,29, le faraone tra 2,05 e 2,15, i conigli oltre 2,5 kg tra 1,89 e 1,95, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 16,80 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer, Livio Stefanuto, sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Da qualche giorno un vasto anticiclone sta interessando l'Europa. La presenza di aria calda e secca in quota e il sopraggiungere di correnti nord-orientali al suolo mantiene condizioni di stabilità atmosferica. Domani e dopodomani avremo bel tempo su tutta la regione, con cielo in genere sereno. Sulla costa soffierà bora moderata e le temperature saranno decisamente estive, con valori che saliranno fino a 32-33 gradi circa. Forte l'escursione termica giornaliera, con temperature minime di notte attorno ai 16-17 gradi in pianura. Mercoledì giungerà aria più fresca in quota e questo comporterà un aumento di instabilità pomeridiana sui monti, dove sarà possibile qualche pioggia locale o qualche isolato rovescio. Su pianura e costa, invece, il cielo rimarrà sereno con venti di brezza. Nei giorni successivi, l'Italia rimarrà in una zona di sella anticiclonica, stretta tra una depressione sul Portogallo ed una depressione sulla Russia. Tra venerdì e domenica giungeranno correnti settentrionali e la regione rimarrà essenzialmente protetta dalle Alpi. Il tempo sarà in genere bello al mattino e variabile nel pomeriggio, con qualche pioggia in montagna. Sulla costa, a tratti, soffierà borino o bora moderata. Le temperature massime dovrebbero scendere di qualche grado, portandosi su valori più tipici per il periodo. Dato l'anticipo della previsione, si consiglia di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano: l'addolora della uve e va vendemade, ovvero per il giorno dell'addolorata, il 15 settembre, l'uva va vendemmiata. Coordinamento tecnico di Carlo Morello, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.